Capitolo 7. Avventura notturna. All'una e mezzo in punto Timothy condusse la signorina Polly e la nipote nel centro della cittadina, dove si trovavano 4 o 5 negozi di abbigliamento. L'acquisto del nuovo guardaroba di Pollyanna si dimostrò un'esperienza assai singolare per tutti. Quando tale operazione fu conclusa, la signorina Polly provò un senso di liberazione simile a quello che si ha quando, dopo aver camminato sull'infido terreno di un vulcano, si rimettono i piedi su un terreno solido e stabile. I diversi commessi che si dedicarono a zia e nipote conclusero quell'impresa con volti accaldati, ma anche con una quantità di storielle divertenti da raccontare subito dopo ai colleghi, tali da tenerli allegri per il resto della settimana. Pollyanna, dal canto suo, ne uscì raggiante perché, come abbia a dire una commessa, quando non si è avuto altro che roba donata dalla carità pubblica, è incredibilmente bello entrare in un negozio e scegliere vestiti nuovi, fiammanti e della propria taglia, senza che debbano essere accorciati o stretti. L'operazione compere richiese tutto il pomeriggio. Poi ci fu la cena e infine Pollyanna poté intrattenersi prima in giardino con Tom e più tardi, mentre zia Polly si trovava in visita da una vicina, poté chiacchierare sotto il portico di casa con Nancy dopo che i piatti erano stati rigovernati. Tom raccontò a Pollyanna tante cose meravigliose della sua mamma che la resero davvero felice. Nancy le parlò invece della fattoria a 6 miglia da lì dove viveva la sua famiglia, la mamma con i fratellini e le sorelline. Nancy le promise anche che qualche volta, se la zia avesse dato il permesso, l'avrebbe accompagnata a fare la loro conoscenza. Sono tanto carini tutti quanti, sai, ti piaceranno. Nancy sospirò pensando a loro. Uno si chiama Algernon, poi ci sono Florabelle ed Estelle, loro sì che hanno dei gran bei nomi. L'unico che non posso sopportare è il mio. Ma Nancy, perché dici questo? Perché non è un nome grazioso come quelli dei miei fratellini e sorelline? Vedi, io sono nata per prima e a quel tempo mia madre non aveva ancora letto tutti quei racconti pieni di bei nomi. A me Nancy piace proprio perché sei tu a chiamarti così, disse Pollyanna con slancio. Ma allora ti piacerebbe anche Clarissa, Mabel, ripeté Nancy, e io sarei molto più contenta, lo trovo un nome davvero magnifico. Pollyanna scoppiò a ridere divertita. Oh, sarebbe molto peggio se ti chiamassi Hepzibah. Hepzibah? Sì, la signora White si chiama così, ma suo marito la chiama Hip, anche se non le piace per niente essere chiamata così. Dice che quando lui chiama Hip Hip ha la sensazione che un attimo dopo griderà urrà e a lei non piace affatto essere chiamata con un urrà. Nancy scoppiò a ridere. D'ora in poi, quando sentirò Nancy, non potrò non pensare a Hip Hip e mi verrà da ridere. Cielo, sono proprio contenta di non chiamarmi con un nome così brutto. Nancy a quel punto si arrestò di colpo e soggiunse: Dimmi un po', Pollyanna, hai forse fatto il tuo gioco con questa storia del nome? Intendo dire del fatto che devo essere contenta di non chiamarmi Hepzibah? Certo, Nancy, rispose Pollyanna dopo averci pensato un po' su. Ho fatto il gioco. Ma questa volta l'ho fatto istintivamente, senza pensarci su tanto. Vedi, se ti sforzi di farlo sempre, finisce che alla fine ti ritrovi a essere felice, a vedere il lato buono di ogni cosa, senza neanche accorgertene. Sì, forse può darsi che sia così, rispose senza troppa convinzione. Alle 8:30, Pollyanna salì in camera sua. Le zanzariere non erano ancora arrivate, per cui le finestre erano rigorosamente chiuse e la piccola stanza sembrava un forno. Pollyanna si spogliò. Ripiegò accuratamente i suoi vestiti, disse le preghiere, spense la candela e si infilò sotto le lenzuola. Quanto tempo fosse rimasta sveglia, rigirandosi di continuo nel piccolo letto, non avrebbe potuto dire, ma le sembrò che fossero trascorse ore quando si decise ad alzarsi, attraversare la stanza e aprire la porta. Il corridoio della soffitta era al buio, tranne un'estremità dove un lucernario filtrava il chiarore della luna. Nonostante il timore che l'oscurità le incuteva, Pollyanna attraversò risoluta il corridoio e raggiunse il lucernario. Aveva sperato in cuor suo che ci fossero le zanzariere, ma non c'erano. La tentazione di aprire la finestra del lucernario però era grande. Fuori, con i raggi della luna, ci doveva essere tutto un mondo incantato e c'era anche quell'aria fresca che sentiva tanto il bisogno di respirare. A quel punto, avvicinandosi ancor più al lucernario e guardando fuori, scorse, proprio sotto l'ampia tettoia poco spiovente della veranda. Quella vista le fece desiderare tantissimo di uscire là fuori al fresco. Si guardò intorno timorosa. Alle sue spalle c'era il corridoio buio, alla cui estremità si trovava quel forno insopportabile della sua stanza e quell'ancora più insopportabile letto nel quale non era riuscita a chiudere occhio. Per ritornarci avrebbe dovuto riattraversare tutta quella oscurità, procedendo con le braccia tese per trovare la strada in quel buio così poco rassicurante. Davanti a lei invece c'era il tetto della veranda, illuminato dai raggi della luna e fuori l'aria fresca della notte. Se soltanto il suo piccolo letto fosse stato lì fuori. Sapeva di gente che d'estate dormiva all'aria aperta. Improvvisamente si ricordò di aver visto, proprio vicino al lucernario, una lunga fila di bianchi involucri che pendevano da una trave. Nancy le aveva detto che contenevano i cappotti invernali, sistemati là durante i mesi estivi. Con un po' di timore, Pollyanna cercò di avvicinarsi a tentoni a quegli involucri e ne scese uno gonfio e morbido. Doveva contenere di certo una pelliccia. Se ne sarebbe servita come materasso. Ne scelse poi un altro più smilzo come guanciale e un altro più sottile ancora da sembrare quasi vuoto come coperta. Così attrezzata, ritornò al lucernario illuminato dalla luna, sollevò l'asta che lo teneva chiuso e fece cadere il grosso fardello sul tetto della veranda sottostante. Poi si calò piano piano all'esterno, badando a richiudere il vetro del lucernario. Non aveva infatti dimenticato che le mosche trasportano tutte quelle cosine con le loro incredibili zampette. Ah, che fresco delizioso faceva lì fuori. Pollyanna respirava quell'aria sentendosi rinascere. Il tetto di lamiera intanto vibrava leggermente come se gemesse sotto il suo peso, ma Pollyanna non se ne preoccupò, intenta com'era a sistemare il suo letto di fortuna. E infine, con un lungo sospiro di soddisfazione, si raggomitolò sul materasso di pelliccia, accomodò guanciale e coperta e si dispose a dormire. È stato molto meglio che le zanzariere non siano arrivate, si disse, contemplando il cielo stellato sopra di sé, altrimenti non mi sarei mai trovata quassù. Sotto di lei, intanto, la signorina Polly, che aveva la camera da letto proprio accanto alla veranda, allarmata per gli strani rumori che aveva udito all'esterno e bianca come un cencio lavato, in vestaglie e pantofole, si aggirava agitatissima per la stanza. Qualche minuto prima aveva chiamato al telefono Timothy. Vieni su subito con tuo padre. C'è qualcuno sul tetto della veranda. Deve essersi arrampicato lungo il traliccio delle rose o da qualche altra parte e può con tutta facilità entrare in casa attraverso il lucernario della soffitta. Ho chiuso a chiave la porta delle scale, ma voi correte presto. Non era molto che Pollyanna si era addormentata quando fu bruscamente svegliata dal bagliore di una torcia e da voci concitate intorno a lei. Scorse Timothy in cima a una scala che era stata appoggiata al muro della veranda. Tom, che stava passando attraverso la finestra del lucernario, come aveva fatto lei, e zia Polly che gli stava alle spalle. Pollyanna, che cosa significa tutto questo? Stava dicendo zia Polly con voce estremamente alterata. Pollyanna, con gli occhi pieni di sonno, si mise a sedere. Santo cielo, il signor Tom, zia Polly! Balbettò. Oh, non dovete spaventarvi, è solo perché avevo tanto caldo là dentro, ma non ho aperto le finestre, zia Polly, stai tranquilla. Timothy scomparve subito giù per la scala. Il vecchio Tom, con altrettanta fretta, mise in mano alla signorina Polly il lume e seguì suo figlio. La signorina Polly, che fino a quel momento era riuscita a controllarsi, disse: Passami quella roba e vieni dentro immediatamente. Sei la bambina più incosciente e irresponsabile che esista sulla faccia della terra. Poi, con Pollyanna da un lato e il lume dall'altro, zia Polly fece per entrare nella soffitta. A Pollyanna l'aria all'interno sembrò ancora più soffocante dopo aver goduto quella fresca della notte, ma non osò dire nulla, si limitò a fare un lungo sospiro. Quando fu in cima alle scale, la zia disse all'improvviso: Dormirai con me per il resto della notte, Pollyanna. Le zanzariere saranno qui domani, ma fino a quel momento ritengo sia mio dovere tenerti sotto il mio diretto controllo. Pollyanna la guardò stupita. Starò con te? Nel tuo letto? Disse quasi estatica. Oh, zia Polly, che pensiero squisito da parte tua. Ho sempre desiderato dormire con qualcuno, qualcuno che fosse della mia famiglia, capisci? Non una signora dell'assistenza. Con quelle ci sono stata tante volte. Oh, santo cielo, sono proprio contenta che quelle zanzariere non siano ancora state consegnate. Non ci fu risposta. La signorina Polly si stava allontanando tutta rigida e impettita. Ma a dire il vero, provava una strana sensazione di impotenza. Era la terza volta che puniva la nipote dopo il suo arrivo e per la terza volta era stata costretta a constatare con stupore che le sue punizioni venivano accolte invece come un premio. Capitolo 8. Una malata difficile. In breve tempo la vita a Harrington riprese il suo ritmo normale, tuttavia non secondo l'ordine stabilito dalla signorina Polly subito dopo l'arrivo della nipote. Anche se Pollyanna si dedicava al cucito, suonava il piano, leggeva ad alta voce, faceva pratica in cucina, non riservava a nessuna di quelle attività tutto il tempo che la signorina Polly aveva programmato. Così facendo aveva più tempo per semplicemente vivere, come diceva lei. Quasi ogni pomeriggio, dalle 2 alle 6, aveva ottenuto di fare quello che preferiva, tranne alcune cose che zia Polly aveva proibito. Resta da sapere se quelle ore di libertà erano concesse a Pollyanna per riposarsi dal lavoro oppure alla signorina Polly per riprendersi dall'esuberanza di Pollyanna. Comunque, quello che si sentiva ripetere di continuo in quei primi giorni di luglio era l'esclamazione della signorina Polly: "Che diavolo di bambina!" E dopo ogni lezione di cucito o di studio, la signorina Polly si ritrovava del tutto esausta e un po' stordita. Per Nancy invece era tutto il contrario. Il mercoledì e il sabato erano per lei 2 giorni molto piacevoli e non finiva mai la giornata, né stanca né stordita. Nei pressi della proprietà Harrington non c'erano bambini con cui Pollyanna potesse giocare. La grande casa si trovava sulla strada che saliva alla collina e anche se c'erano altre case lì intorno, sfortunatamente non vi abitavano famiglie con ragazzini coetanei di Pollyanna, ma quella circostanza non sembrava pesarle minimamente. Oh, non mi dispiace proprio, ripeteva Nancy. Mi piace anche solo poter andare in giro a imparare a conoscere le strade e le case e vedere la gente. A me piace la gente. A te non piace, Nancy? Beh, non posso dire che mi piaccia proprio tutta, rispose Nancy. Quasi ogni pomeriggio, quando il tempo era bello, Pollyanna chiedeva di poter fare qualche commissione come pretesto per andare a spasso. E proprio durante quelle singolari passeggiate spesso incontrava un tale che aveva battezzato l'uomo, anche se nello stesso giorno le capitava di incontrare molti altri uomini. L'uomo portava in genere una palandrana nera e un cappello a cilindro, due cose che gli altri non portavano di certo. Aveva il viso pallido e ben rasato, e da sotto al cappello si vedeva che era un poco brizzolato. Camminava diritto, piuttosto spedito, ed era sempre solo. Cosa che induceva Pollyanna a provare una certa compassione per lui. Forse fu per quel motivo che un giorno si decise a rivolgergli la parola. Come sta, signore? Non è una bella giornata? Gli disse Pollyanna con molta grazia, dirigendosi verso di lui. L'uomo gettò un'occhiata furtiva intorno a sé, quindi si fermò, incerto. Hai parlato con me? Domandò, e c'era durezza nella sua voce. Eh sì, signore, rispose Pollyanna. Dicevo che oggi il tempo è splendido, non le sembra? L'uomo borbottò qualcosa riprendendo la sua strada. Pollyanna lo guardò allontanarsi. Che strano tipo, pensò. Il giorno dopo lo incontrò di nuovo. Non è più una bella giornata come ieri, ma comunque si sta sempre bene, disse la ragazzina allegramente. L'uomo bofonchiò allo stesso modo del giorno precedente. Pollyanna seppe ancora ridere di quel suo modo brusco di rispondere. Quando però Pollyanna lo salutò per la terza volta allo stesso modo, l'uomo si fermò di colpo. Si può sapere che cosa vuoi da me, piccola? Mi chiamo Pollyanna Whittier e mi è sembrato che lei fosse un po' solo. Sono contenta che si sia fermato, signore. Ora ci conosciamo, solo che non so ancora il suo nome. Ma per tutti i... E l'uomo non terminò e si allontanò più in fretta del solito. Pollyanna lo guardò allontanarsi con una leggera espressione di disappunto sul volto. Di solito sempre ridente. Forse non ha capito, ma è stata solo una presentazione a metà. Non so ancora il suo nome, disse fra sé mentre proseguiva per la sua strada. L'incarico di Pollyanna per quel giorno era di portare un petto di pollo in gelatina alla signora Snow. Una volta alla settimana, infatti, la signorina Polly Harrington mandava qualcosa alla signora Snow. Diceva che era suo dovere, in quanto la signora Snow era povera, malata e membro della sua chiesa, e per questo, appunto, era dovere di tutti i parrocchiani interessarsi di lei. Di solito la signorina Polly si occupava della signora Snow di giovedì mattina, non di persona, ma tramite Nancy. Pollyanna aveva chiesto di poterla sostituire una volta e Nancy era stata ben lieta di accontentarla dopo aver chiesto il permesso alla signorina Polly. Sono contenta di essermela cavata questa volta, disse poi Nancy quando si trovò sola con Pollyanna. Però mi dispiace che sia toccato a te, povera piccola. Tu che c'entri? Oh, ma a me piace andarci, Nancy. Ah, non ti piacerà più tanto dopo la prima volta, disse Nancy. Perché? Perché a nessuno piace. Se la gente non avesse compassione di lei, resterebbe sola dalla mattina alla sera, tanto è antipatica e scostante. Mi fa pena sua figlia con tutto quello che deve sopportare. Ma perché Nancy? Nancy si strinse nelle spalle. Beh, per parlar chiaro, non c'è mai niente che le vada bene a quella là. Persino sui giorni della settimana ha qualcosa da ridire. Se è lunedì, dice che preferirebbe fosse domenica. Se le porti il pollo in gelatina, si può essere certi che avrebbe preferito il pollo arrosto. Ma se ci vai con l'arrosto, è la volta che si aspettava un brodo. Che strano tipo, disse Pollyanna ridendo. Mi fa piacere andare a trovarla, deve essere davvero originale e diversa dagli altri. Mi piacciono le persone singolari. Oh, se è per questo diversa da tutti, la signora Snow lo è di sicuro. Almeno lo spero per il bene di noi tutti, disse Nancy cupa. E proprio a quelle parole Pollyanna ripensava, mentre si avvicinava alla povera e squallida casetta. Gli occhi comunque le brillavano all'idea di incontrare quella strana signora. Le venne ad aprire una ragazza piuttosto pallida e dall'aria stanca e triste. Buongiorno, disse Pollyanna. Vengo da parte della signorina Polly Harrington. Se non disturbo, vedrei volentieri la signora Snow. Come vuoi, ma è certamente la prima volta che qualcuno la vede volentieri, mormorò la ragazza a bassa voce. Senza averla udita, Pollyanna attraversò con lei l'ingresso e la seguì fino alla porta che era in fondo a un corridoio. Dopo averla fatta entrare nella stanza, la ragazza se ne andò, richiudendo la porta e lasciando Pollyanna nella semioscurità, tanto che non le riusciva di vedere nulla. Poi, non appena la sua vista si fu adattata a quella penombra, riuscì a scorgere i contorni di una figura sorretta da cuscini in un letto posto al centro della stanza. Pollyanna allora si fece avanti. Come sta, signora Snow? Zia Polly spera stia meglio oggi e le manda un petto di pollo in gelatina. Ah, povera me! Gelatina! Disse una voce irritata. Si intende che le sono molto grata, ma oggi pensavo proprio che mi avrebbe mandato un po' di brodo. Pollyanna la guardò con espressione interrogativa. Ma come? Io credevo che volesse pollo arrosto quando le portano pollo in gelatina, disse. Che cosa intendi dire? La malata si voltò bruscamente. Oh, niente di importante, rispose. Solamente che Nancy dice che lei preferisce il pollo arrosto quando le si porta quello in gelatina e brodo quando portiamo il pollo. Ma forse Nancy non ricorda più bene. La donna si drizzò a sedere sul letto, cosa che faceva di rado, anche se Pollyanna non lo sapeva. Bene, signorina impertinente, si può sapere chi sei? Chiese. Nella stanza risuonò la risata allegra di Pollyanna. Oh, quello non è il mio nome, signora Snow, e sono anche contenta che non lo sia. Sarebbe certo peggio che chiamarsi Ipsaivach, non le pare. Sono Pollyanna Whittier, la nipote della signorina Polly Harrington. Sono venuta ad abitare dalla zia ed è per questo che oggi mi trovo qui con la gelatina. Per tutta la prima parte della dichiarazione di Pollyanna, la malata era rimasta dritta a sedere, ma non appena sentì nominare la gelatina, si abbandonò stancamente indietro contro i guanciali. Molto bene, grazie tante. Tua zia è molto gentile naturalmente, ma oggi non ho proprio appetito ed è il brodo che desideravo. Si fermò d'un tratto, quindi proseguì cambiando del tutto argomento. La notte scorsa non ho chiuso occhio, non un solo minuto. Oh, vorrei proprio che fosse capitato a me, sospirò Pollyanna, posando il contenitore della gelatina sul tavolo da notte e sistemandosi a sua volta sulla sedia più vicina. Si perde tanto di quel tempo a dormire, non le pare? Perder tempo? A dormire? Esclamò la donna. Eh sì, perché si potrebbe vivere invece. Mi sembra un tale peccato che non si possa vivere anche di notte. La malata si sollevò di nuovo dai cuscini. Ecco una ragazzina davvero straordinaria, disse. Vai un po' alla finestra e apri le tende, ordinò. Voglio vedere che aspetto hai. Pollyanna si alzò un po' malvolentieri. Povera me, così scoprirà che sono piena di lentiggini, disse con un sospiro mentre si avvicinava alla finestra. E pensare che ero contenta che ci fosse buio così non avrebbe potuto vederle. Ah, beh, ecco fatto, disse con un bel sorriso mentre si avvicinava di nuovo al letto. Sono tanto contenta che abbia voluto vedere me, perché anch'io ora la posso vedere. Non mi avevano detto quanto fosse carina. Io? Carina? Disse la donna acida. Ma sì, Non lo sapeva? Disse di slancio Pollyanna. Vabbè, no, no, non mi risulta proprio, replicò la signora Snow con freddezza. La signora Snow aveva 40 anni e ne aveva trascorsi almeno 15 a desiderare una vita diversa da quella che si trovava a vivere, trascurando così di goderla semplicemente per quello che era. Oh, ma i suoi occhi sono così belli e i suoi capelli sono neri e ondulati, esclamò Pollyanna. A me piacciono tanto i capelli ondulati e neri. Questa è una delle cose che avrò quando andrò in cielo. E la sua pelle è bianca e delicata. Sì, signora Snow, lei è veramente bella. Se ne accorgerà di certo quando si guarda allo specchio. Lo specchio? Si arrabbiò la malata, ricadendo indietro sui cuscini. Oh, non avevo certo voglia di stare davanti a uno specchio negli ultimi tempi. E nemmeno tu ne avresti voglia se fossi costretta a letto come me. Beh. No, di certo, fu d'accordo Pollyanna con partecipazione. Ma un momento, lasci solo che le mostri, disse slanciandosi verso la specchiera, afferrando un piccolo specchio da tavolo. Se non le spiace, però, vorrei prima sistemarle un poco i capelli, disse Pollyanna. Posso? Ah, fa come vuoi, borbottò la signora Snow, ma non staranno a posto, vedrai. Oh, grazie, è la mia passione pettinare la gente. Spiegò la bambina posando allo specchio e raggiungendo con la mano un pettine che si trovava poco più in là. Appena una giusta tina oggi, naturalmente, tanto per mostrarle com'è carina, ma un giorno o l'altro le scioglierò i capelli completamente e mi divertirò molto a sistemarglieli come si deve. Disse passando delicatamente una mano sui capelli ondulati che ricadevano sulla fronte della malata. Per circa 5 minuti Pollyanna si impegnò abilmente passando con cura il pettine tra i capelli. Domando qualche ricciolo ribelle, sollevando le ciocche che ricadevano sulle spalle e sistemando il cuscino in modo che la testa potesse stare appoggiata in un modo migliore. Intanto la signora Snow assumeva via via un'espressione di crescente sorpresa e, anche se mostrava scetticismo circa l'intera operazione, cominciava a suo malgrado a provare interesse e curiosità per il risultato. Ecco fatto, disse Pollyanna. Poi, non contenta, prese un garofano da un vaso e lo infilò tra i capelli della signora Snow. Ora credo proprio che possa ammirarsi, disse porgendole soddisfatta allo specchio. Fece la malata specchiandosi con qualche diffidenza. Preferisco i garofani rossi a quelli rosa. Comunque sarà appassito prima di sera, per cui non fa molta differenza. Oh, ma dovrebbe essere contenta che appassiscano, disse Pollyanna, così avrà il piacere di averne di freschi. Trovo che con i capelli un po' gonfi stia molto bene, disse poi lanciandole un'occhiata di apprezzamento. Lei no? Sarà, ma tanto non dura, con tutto quel rigirare la testa sul cuscino da una parte e dall'altra come faccio. No, certamente. Ma è meglio che non duri, disse Pollyanna allegramente, così potrò pettinarla ancora. Comunque dovrebbe essere contenta di avere i capelli scuri. Sul guanciale risaltano molto meglio di quelli rossicci come i miei, per esempio. Sarà, ma non mi sono mai piaciuti i capelli scuri. Quando diventano grigi sono più brutti degli altri, disse in tono irritato, ma intanto continuava a tenere lo specchio davanti al volto. Oh, a me piacciono i capelli neri, magari li avessi io, sospirò Pollyanna. La signora Snow depose lo specchio e la guardò irritata. Al mio posto non ti piacerebbe tanto. Non ti piacerebbero i capelli neri o nient'altro se fossi costretta a stare a letto tutto il giorno come me. Pollyanna si fece seria in volto. Credo proprio che sia difficile in queste condizioni essere contenti di tutto, mormorò. Essere cosa? Essere contenti di ogni cosa. Contenti di ogni cosa, quando si è inchiodati a letto tutto il santo giorno, ti assicuro che è impossibile, disse arrabbiata la signora Snow. Se poi non ci credi, prova tu a dirmi di che cosa uno dovrebbe essere contento in queste condizioni. Con grande stupore della signora Snow, Pollyanna si alzò di scatto e disse seria: Ah, questo è proprio difficile. Ora devo andare, ma ci penserò per tutta la strada e forse la prossima volta che verrò le dirò quello che ho pensato. Arrivederci, è stato molto piacevole stare qui. Arrivederci, disse ancora voltandosi indietro prima di lasciare la stanza. Oh, questa poi, che cosa avrà mai voluto dire? Disse fra sé la signora Snow, indugiando a fissare la porta da dove era uscita la ragazzina. Quindi riprese lo specchio e restò un poco a osservarsi con sguardo critico. Quella piccola strega ci sa fare con i capelli, borbottò. borbottò. Devo ammettere che non credevo di riuscire più ad avere questo aspetto. Ma in fin dei conti, a che serve? Sospirò, lasciando cadere stancamente lo specchio sulla coperta e abbandonando con irritazione la testa sul cuscino. Quando un po' più tardi Millie, la figlia della signora Snow, entrò, lo specchio era ancora tra le coperte. Ma come, mamma? Le tende sono aperte? Chiese spostando lo sguardo stupito dalla finestra al garofano infilato tra i capelli di sua madre. E con questo? Rispose la donna bruscamente. Non vedo perché dovrei stare al buio tutta la vita anche se sono ammalata, non ti pare? Oh, ma no, certamente no, accondiscese Millie immediatamente mentre prendeva in mano la boccetta della medicina. Soltanto perché, beh, sai benissimo che cerco da una vita di convincerti a non rimanere perennemente al buio e tu non hai mai voluto. La signora Snow non rispose. Era occupata a ispezionare il pizzo della sua camicia da notte finché osservò in tono irritato: Qualcuno dovrebbe farmi avere una camicia nuova piuttosto del brodo, tanto per cambiare. Ma mamma, non c'è da stupirsi dello stupore di Millie. Nel cassetto dietro di lei c'erano infatti due camicie nuove che da mesi aveva cercato invano di fare indossare alla mamma. Capitolo 9. Uno strano tipo. Pioveva quando Pollyanna incontrò di nuovo l'uomo. Tuttavia lo salutò con un sorriso smagliante. Il tempo non è un granché oggi, disse. Comunque sono contenta che non piova tutti i giorni. Questa volta l'uomo non bofonchiò né girò il capo dall'altro lato. Pollyanna concluse che con tutta probabilità non l'aveva udita. La volta successiva, comunque, capitò esattamente il giorno dopo, gli si rivolse con una voce più squillante. A Pollyanna era sembrato assolutamente indispensabile, in quanto l'uomo stava procedendo a grandi passi, le braccia dietro la schiena e gli occhi fissi a terra, un vero affronto al sole che splendeva radioso e all'aria fresca del mattino. Per fortuna di Pollyanna, quello era il suo giorno di commissioni. Come sta? Disse andandogli incontro. Sono proprio contenta che oggi non sia come ieri. E lei? L'uomo si arrestò di colpo. C'era un'espressione irata sul suo volto. Senti un po', ragazzina, incominciò. E ora che sistemiamo la questione una volta per tutte, ho altro da fare io che occuparmi del tempo. Non so nemmeno se c'è il sole o no. Il volto di Pollyanna si illuminò. Appunto, ero sicura che fosse così. Ecco perché gliel'ho detto io. Ah, sì? E cioè? Disse mantenendo il tono brusco, mostrando di avere qualche difficoltà a capire le sue parole. Dico che l'avvisavo. Così lei poteva accorgersi che c'era il sole, capisce? Che il sole splende, insomma. Ero sicura che sarebbe stato contento che c'era il sole non appena se ne fosse reso conto e non mi sembrava proprio che lei avesse l'aria di accorgersene. Per tutti, disse l'uomo con un gesto di stizza e cominciò ad allontanarsi, ma dopo qualche passo tornò indietro con un'espressione più burbera che mai. Senti un po', perché per parlare non cerchi una bambina della tua età? Oh. Beh, mi piacerebbe molto, signore, ma non ce ne sono nei dintorni, così dice Nancy. Ma devo precisare che non mi importa un granché. Mi piace stare anche con i grandi, anzi, qualche volta lo preferisco, abituata com'ero alle signore dell'assistenza. Ah, davvero? È così? Mi hai forse preso per una di loro? L'uomo stava per sorridere, ma si trattenne, anzi, riprese un'espressione cupa. Pollyanna non si lasciò comunque impressionare. Oh no, lei non assomiglia minimamente alle signore dell'assistenza. Con questo, non voglio dire, aggiunse con garbo, che non sia buono come loro, al contrario, sono sicura che lei è molto meglio di quello che appare. L'uomo emise uno strano borbottio. Per tutti, sbottò ancora. Si girò e riprese la sua strada. Qualche giorno dopo, quando Pollyanna tornò a incontrarlo, egli la guardò dritto negli occhi, con aria canzonatoria che piacque molto alla bambina. Buongiorno, le disse, conservando un po' della sua abituale durezza. Forse farò bene a informarti subito che so che oggi c'è il sole. Oh, non c'era bisogno che lo dicesse, disse Pollyanna con la consueta allegria. Si vede da sé, me ne sono accorta subito appena l'ho vista. Davvero? Sì, si capiva dagli occhi e dal sorriso. Ma, mormorò l'uomo allontanandosi. Da quel giorno lo sconosciuto non mancò più di rispondere al saluto di Pollyanna, anzi, spesso salutava lui per primo, anche se si limitava ad un asciutto buongiorno. Ma tanto bastò per destare la meraviglia di Nancy un giorno in cui per caso era con Pollyanna quando lo incontrarono. Santo cielo, signorina Pollyanna, quell'uomo ti rivolge la parola? Oh sì, adesso mi saluta sempre, rispose Pollyanna sorridendo. Mi saluta sempre? Santo cielo, ma tu lo sai chi è quello? Pollyanna aggrottò la fronte e scosse la testa. A dire la verità, si è dimenticato di presentarsi quel giorno, cioè io mi sono presentata, ma lui no. Nancy spalancò tanto d'occhi. Sono anni che non parla con nessuno, a meno che non sia costretto per questioni d'affari o altro che sia assolutamente necessario. Si chiama John Pendleton. Vive solo nella grande casa a Pendleton Hill e non vuole nemmeno avere qualcuno che cucini per lui. Scende in paese 3 volte al giorno per andare al ristorante. Per le pulizie c'è Sally Miner, io la conosco e lei dice che riesce a stento a farlo parlare quando c'è da fare qualche spesa, ma il più delle volte le tocca indovinare. Del resto l'importante è comprare roba a buon mercato, ormai questo lo sa, senza bisogno di discutere. Pollyanna annuì come capisse la situazione. Lo so che cosa vuol dire essere poveri. Bisogna sempre scegliere solo quello che costa poco. Papà e io lo facevamo sempre, e quando non pranzavamo in casa prendevamo il più delle volte fagioli e polpette di pesce. Eravamo molto contenti che ci piacessero tanto i fagioli, specialmente quando vedevamo il piatto degli arrosti che costava troppo. Pensi che al signor Pendleton piacciono i fagioli? Piacergli i fagioli? Che importa se gli piacciono o no? Pollyanna, quell'uomo non è affatto povero. Ha un mucchio di soldi, John Pendleton. Li ha avuti da suo padre e non c'è nessuno nella zona che sia ricco come lui. Potrebbe mangiarsi un piatto di banconote in insalata senza neanche accorgersene se gliene venisse voglia. Pollyanna ridacchiò all'idea. E come farebbe a non accorgersene? Voglio semplicemente dire, continuò Nancy alzando le spalle, che è ricco sfondato. Il fatto è che non gli piace spendere, a meno che non sia strettamente necessario. Lui preferisce fare economia. Oh, può darsi che voglia sacrificarsi, disse Pollyanna. È davvero magnifico rinunciare a se stessi e prendere la propria croce. Papà me lo diceva sempre. Nancy spalancò la bocca, pronta a disilludere Pollyanna con un fiume di parole, ma incontrando lo sguardo limpido e fiducioso della bambina, si trattenne. Le scappò detto, e quindi proseguì. In ogni caso è davvero strano che parli con te, signorina Pollyanna. Non parla mai con nessuno. Vive tutto solo in quella grande casa, piena di cose preziose, dicono. C'è chi dice che è matto e chi assicura che ha un caratteraccio, altri invece dicono che tenga uno scheletro nell'armadio. Nancy, rabbrividì Pollyanna, come può nascondere una cosa simile? Nancy ridacchiò. Aveva capito che Pollyanna prendeva il discorso dello scheletro in senso letterale, anziché in senso figurato, ma con malizia glielo lasciò credere. Tutti dicono che è un uomo misterioso, continuò, a volte in viaggio per anni, passando dall'Asia all'Africa e visitando i paesi più selvaggi. Oh, allora è un missionario, disse Pollyanna convinta. A quelle parole Nancy stranamente rise. Questo non l'ho detto, signorina Pollyanna. Quando torna dai suoi viaggi scrive una quantità di libri. Libri strani e difficili, dicono, su tutte le cose incredibili che ha visto in quei paesi lontani. Quando è qui però non spende un soldo, spende solo quel po' che gli basta per vivere. E si capisce, deve fare economia per le missioni, dichiarò Pollyanna, sempre più convinta. Che strano tipo. È diverso dagli altri, proprio come la signora Snow, soltanto che è ancora più diverso. Beh, su questo non c'è dubbio, concluse Nancy. Comunque adesso sono persino più contenta che parli con me, disse Pollyanna, pienamente soddisfatta.